Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Ultima puntata di agosto che ci porterà però ancora al mare fra Gibilterra, tartarughe, ma insomma è meglio che ascoltiamo i titoli insieme di questa puntata. Benvenuti e benvenute a Mebius. Riemergere da un'immersione in apnea ad 80 metri di profondità e non vedere nulla può essere pericoloso. Un nuovo tipo di maschera può risolvere il problema. Bagagli smarriti all'aeroporto? Niente paura. È in arrivo il software che vi permette di recuperarveli da soli. Sulle coste calabre nidifica una delle colonie più importanti fra le tartarughe mediterranee, specie già in condizioni precarie per quanto riguarda la sopravvivenza. Un gruppo di ricercatori ne ha studiato il DNA. Installare pannelli fotovoltaici è un'importante direzione innovativa, ma altrettanto cruciale è come gestirli. Le strane acque del mare vicino a Gibilterra, dove il piccolo Mediterraneo incontra il grande oceano. Una barca di ricerca va a studiare le correnti e la popolazione ittica delle acque vicino al canale. Robot soldato, l'ultima controversa frontiera della ricerca militare. Nei titoli, per ragioni tecniche che non sto a spiegarvi, ci siamo dimenticati di un servizio importante che ascolterete fra poco. Dante Alighieri è finito online. Invece ora, qualora siate interessati a strumenti che possono migliorare le vostre immersioni in apnea a 70-80 metri, Maurizio Melis vi rende conto di uno appunto di questi nuovi strumenti. Con le pinne, fucile d'occhiali. Sì, lo sappiamo, è un po' tardi per la retorica delle vacanze. L'estate ormai è finita, ma non tutti abbandonano la maschera. C'è tutta una comunità di appassionati del mondo sommerso, gente a cui piace, diciamo letteralmente, rimanere col fiato sospeso e che si immerge per molti mesi all'anno. E quel che più conta, in profondità. Parliamo degli apneisti, di sportivi quindi, che si dedicano a questa disciplina che è l'immersione in apnea, non delle più comuni e certamente non priva di qualche rischio, come peraltro tutte le immersioni. Ebbene, tutti sanno del pericolo di incorrere in un'embolia che si corre riemergendo rapidamente dopo un'immersione con le bombole. Come è noto, questo rischio non riguarda chi si immerge in apnea, perché non respirando sott'acqua il nuotatore non accumula gas ad alta pressione nel sangue. Tuttavia, l'immersione rimane il momento più critico anche nel caso dell'apnea, per ragioni che ci facciamo spiegare dal nostro ospite, ricercatore del CNR INOA, l'Istituto Nazionale di Ottica Applicata, ed anche apneista, e che abbiamo invitato, lo diciamo subito, perché ha inventato un particolare tipo di occhiali da apnea. Luca Mercatelli, buonasera. Buonasera. Sì, la riemersione è il momento più critico anche di un'immersione in apnea, ovvero un'immersione nella quale si prende la boccata d'aria in superficie e poi con la stessa aria si arriva in profondità e si ritorna fino all'immersione, perché, come tutti probabilmente hanno sperimentato facendo snorkeling, tutte le cavità piene di aria, andando in profondità, diminuiscono di volume. Ciò succede anche nei nostri polmoni e quindi in profondità i nostri polmoni diventano molto più piccoli. Molto più piccoli. Cosa succede quindi? Quando siamo in profondità l'aria che abbiamo preso in superficie è sempre la stessa, i polmoni però sono più piccoli e quindi sembra tutto va come se ci fosse più aria, perché diciamo la pressione parziale dell'ossigeno all'interno dei nostri polmoni è maggiore. È molto alta. Il corpo sembra di avere molta più aria. Quando si riemerge però l'aria l'abbiamo consumata, negli ultimi 10 metri i polmoni raddoppiano di volume e quindi improvvisamente crolla la pressione parziale dell'ossigeno e quindi... E l'organismo si ribella, immagino che sia anche abbastanza, come dire, una sofferenza. Assolutamente, sì, si può anche avere perdita di lucidità e situazioni presincopali e sincopali, ovvero una situazione in cui si sta per svenire sostanzialmente, che si chiama samba perché è caratterizzata da dei movimenti compulsi del corpo e poi successivamente si può avere la perdita di coscienza sostanzialmente. Abbiamo anticipato che lei ha inventato un paio di occhialini, ecco perché tra l'altro come in molti sport estremi ci sono delle attrezzature particolari per immergersi in apnea ad alta profondità. Una normale maschera comunque in ogni caso non va bene. Solitamente per l'apnea si utilizzano sicuramente delle maschere a volume interno ridotto, quindi dove c'è pochissima aria all'interno, e ultimamente, negli ultimi anni, sono stati introdotti degli occhialini allagabili, ovvero nei quali, all'interno dei quali si mette acqua o soluzione fisiologica, che quindi non necessitano l'introduzione di aria man mano che si va in profondità, perché appunto la maschera tradizionale c'ha il problema dell'effetto ventosa, quindi si attacca al volto producendo al limite anche la rottura dei capillari. Invece con questi occhialini, essendo riempiti di liquido, e il liquido è un fluido incomprimibile. Non c'è bisogno di doverli compensare. Chiaramente, per riuscire a vedere bene sott'acqua devono essere messe delle lenti aggiuntive per dare la buona visione sott'acqua. Sì, perché tutti abbiamo sperimentato cosa succede, per esempio buttandoci in piscina, aprendo gli occhi sott'acqua senza occhialini, non si vede niente, tutto estremamente sfocato. Esattamente. No? Quando sott'acqua con gli occhialini pieni d'acqua, chiaramente non si vede niente. Sì, esattamente lo stesso effetto. Delle lenti correttive per riuscire a vedere bene sott'acqua. D'altra parte, quando si riemerge con gli occhialini pieni di acqua e le lenti correttive, non si riesce a vedere bene sopra la superficie, quindi non si riesce a reperire i compagni di immersione e la boa di appoggio. Quindi il momento di maggior sofferenza fisica, quello della riemersione, è anche il momento in cui la maschera, che è servita a vedere bene sott'acqua, invece è un impedimento. Quando si sta male si cerca il primo appiglio, e qui veniamo alla sua invenzione. Sì, assolutamente. Allora, la nostra invenzione sostanzialmente è un paio di occhialini da piscina muniti di una lente correttiva per occhio, che appunto consente di riuscire a vedere bene sott'acqua quando gli occhialini sono riempiti di acqua o di soluzione fisiologica. Mm-hmm. Però che cosa succede? Una volta riemersi appunto con gli occhialini pieni di acqua e la lente correttiva davanti, non si riuscirebbe a vedere nulla. Non si riuscirebbe a vedere nulla. Quindi noi abbiamo fatto un'ulteriore modifica, ovvero davanti alla lente correttiva che c'è per ciascun occhio sono state introdotte delle camerette aggiuntive, una delle quali viene svuotata nel momento in cui si riemerge, nell'altra invece rimane l'acqua, e sostanzialmente si viene a formare una lente d'acqua che controbilancia esattamente il potere ottico della lente correttiva che serve a vedere bene sott'acqua, e in questo modo si ripristina la corretta visione anche sopra il pelo dell'acqua. Ecco, senta, sì, perché poi questo problema della visibilità può sembrare un po' secondario, ma noi siamo abituati a vedere l'apnea in televisione solo quando si batte un record del mondo o qualcosa del genere, con 40 persone intorno, la BBC e così via. È evidente che in altre condizioni, per esempio come durante gli allenamenti, si sia un po' meno assistiti, un po' meno accuditi. Sì, allora noi chiaramente quando si va in apnea bisogna essere almeno in due, cioè il compagno deputato all'assistenza e l'apneista che si va a immergere, poi ci si alterna e quindi si va sott'acqua uno alla volta e l'altro è deputato all'assistenza, però appunto una cosa è essere in due in mare e una cosa è essere un'equipe di diverse persone. Va bene. Grazie allora Mercatelli e buon bagno. Grazie mille a voi, e speriamo che questi occhialini vengano commercializzati e quindi resi disponibili per tutti gli apneisti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Spero che non dobbiate ascoltare questo servizio con troppo interesse, magari con un po' di rabbia, perché Chiara Albicocco sta per parlarvi di tecnologie per migliorare la gestione dei bagagli smarriti. Chissà quanti di voi all'ascolto in questo momento si sentiranno chiamati in causa. Siete appena atterrati e arrivati ai nastri del ritiro bagagli in aeroporto, vi siete accorti che i vostri bagagli non sono atterrati con voi? Ecco, chissà dove saranno finiti. Bene, niente paura, perché è in arrivo nel prossimo autunno un sistema fai da te per recuperare i bagagli cosiddetti disguidati. Niente più interminabili file per il reclamo, sembrerebbe. Infatti tra poco in aeroporto troveremo il World Tracer. Si chiama così e ci spiega di che cosa si tratta e come funziona Lorenzo Belicchi. Buonasera e benvenuto Belicchi. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, lei è responsabile per il Sud Europa della SITA, che è la Società Internazionale di Telecomunicazioni Aeronautiche, e cioè la società che fornisce i servizi informatici e di telecomunicazione per le compagnie aeree. Dunque, ora lei ci deve spiegare i vantaggi di questo nuovo sistema, il World Tracer, che si chiama così, che ci permetterà appunto di seguire i nostri bagagli smarriti da soli? Sì, ecco, come evidenziato dal nome stesso, il World Tracer è un sistema, direi, unico nel suo genere, che è stato creato dalla SITA e fortemente sponsorizzato dalla IATA. È un sistema che permette in maniera totalmente automatizzata il ritrovamento nel minor tempo possibile dei bagagli disguidati o smarriti su scala, diciamo, mondiale. Beh, quindi in soldoni troveremo in aeroporto delle colonnine, dei terminali dove rintracciare da soli il nostro bagaglio? Sì, già oggi negli aeroporti, tutti gli aeroporti del mondo, ci sono dei punti appositi dove il passeggero, in caso di bagaglio disguidato, si deve recare per aprire la pratica del reclamo. Oggi, fino a ieri... Lei sa che ci sono delle file interminabili davanti a questi esattamente, box. Esattamente, quindi se uno si mette nei panni del passeggero, ecco, non c'è, soltanto c'è la frustrazione del fatto che il bagaglio è stato perso, ma ci sono anche, diciamo, queste code da dover effettuare a questi banchi reclami. SITA, proprio per risolvere questo problema, ha messo a disposizione questo sistema World Tracer, che fino a ieri era ad uso esclusivo degli operatori del settore, lo ha reso disponibile al passeggero. Ci saranno quindi dei chioschi, quindi delle macchinette come quelli che il passeggero oggi può trovare alle partenze per effettuare in maniera fai da te, in maniera self-service, diciamo, la carta d'imbarco. Quindi dei terminali online. Terminali online, esattamente, che saranno collocati preferibilmente vicino comunque alle zone destinate ai reclami, in cui però il passeggero in maniera totalmente autonoma si può recare da solo, aprire la pratica relativa al suo bagaglio smarrito. Ecco, in questo modo poi può essere avvisato del ritrovamento o dello stato del proprio bagaglio attraverso che mezzi? Assolutamente, nel momento in cui tramite queste macchinette il passeggero aprirà la pratica relativa al bagaglio smarrito, gli sarà comunicato un codice univoco relativo al suo bagaglio, e tramite questo codice il passeggero potrà sempre essere informato in merito allo stato di questa pratica, sia diciamo via mail oppure via sms, oppure semplicemente entrando nel sito web del World Tracer per fare una ricerca in maniera totalmente autonoma. Ecco, quindi diciamo che è un enorme software che permette il recupero e la tracciabilità del nostro bagaglio in maniera completamente automatica. Assolutamente, diciamo che il vantaggio grosso è che questo database è su scala mondiale, è in uso praticamente da tutte le compagnie aeree mondiali, per cui è un'unica sorgente di informazione condivisa in cui confluiscono le informazioni relative a tutti i bagagli disguidati nel mondo. Ecco, mi sembra di capire che in alcuni paesi è già in uso nei nostri aeroporti. Quando arriverà? Il World Tracer è in uso agli addetti ai lavori da svariati anni, in modalità fai da te su questi chioschi prevediamo di cominciare le installazioni negli aeroporti a partire da quest'autunno, quindi verso la fine di quest'anno. La prima dimostrazione ovviamente è stata fatta agli addetti ai lavori al Passenger Terminal Expo che si è svolto a Londra nello scorso marzo, e poi ha avuto l'approvazione, diciamo, dalla IATA nell'ultima assemblea annuale svoltasi a Kuala Lumpur lo scorso giugno, riscuotendo un notevole successo da parte di tutti gli operatori del settore. Bene, quindi sta arrivando, insomma. Sta arrivando. È un modo sicuramente per ridurre i costi sia delle compagnie aeree, quindi probabilmente avrà una ricaduta anche sui biglietti, ma si riducono anche i tempi di attesa, che è la cosa veramente che di solito pesa di più al viaggiatore. Assolutamente, perché ovviamente garantendo una condivisione totale su scala mondiale delle informazioni è chiaro che il bagaglio viene ritrovato in un tempo minimo e quindi ristradato al suo proprietario, ecco, nel minor tempo possibile. Quindi se da un lato questo contribuisce alla riduzione dei costi relativi al disguido dei bagagli per gli operatori del settore, dall'altro può anche aumentare, diciamo, il livello di comfort, no, del passeggero, perché si sente in controllo di una situazione che a lui arreca un danno, perché ovviamente il suo bagaglio è stato perso. Ma il servizio è gratuito? Il servizio è assolutamente gratuito al passeggero, perché è un servizio, diciamo, di beneficio comune sia alle compagnie aeree, sia alle autorità aeroportuali, sia a tutti quelli ground handler che ovviamente gestiscono quello che in gergo si chiama lost and found, quindi la sezione dei reclami dei bagagli smarriti, sia ovviamente del passeggero, perché in finale è l'ultimo diciamo, utilizzatore di questo sistema, ma è colui che subisce il danno in prima persona. Bene, quindi mi sembra che i vantaggi davvero siano numerosi, non ci sono contraddizioni, non ci sono contro. No, contraddizioni assolutamente no. Nell'ultimo, lei sa che SITA ogni anno fa un'inchiesta a tutti gli operatori del settore inerenti al numero dei bagagli disguidati. Ecco, ci dica, sono veramente tanti, io ne so qualcosa. Sì, diciamo che nell'ultimo baggage report del 2008 il danno consolidato per l'industria aeronautica si aggirava intorno al 1.300.000.000 di dollari. Quindi è chiaro che c'è un elevato interesse da parte di tutti per riuscire ad abbattere sensibilmente questo dato. È stato comprovato che l'utilizzazione di applicativi condivisi per il trovamento dei bagagli smarriti possono contribuire ad abbattere questo dato di svariate centinaia di milioni di euro. Va bene, Belicchi. Allora, buon lavoro, grazie e aspettiamo con ansia, io per prima, questo nuovo servizio. Grazie mille a voi. Buonasera. Buonasera. Sfumo questo brano, uno dei brani credo più antichi trasmissibili per radio, è il Media Vita di Nocter Balbulus, siamo intorno all'anno 1000. Media Vita, nel mezzo della vita, già queste parole per noi rimandano quasi immediatamente a un personaggio molto importante della nostra cultura, di cui sto a parlare con Fabio Di Gianmarco. Buonasera Di Gianmarco. Buonasera. Studioso di tecnologie digitali applicate alla ricerca culturale e spesso ad avventure che riguardano libri e autori, ci siamo sentiti già altre volte. Ecco, Di Gianmarco, Media Vita, nel mezzo della vita, stiamo per parlare di Dante Alighieri, che è arrivato in rete con un sito italiano e direi, insomma, è un fatto piuttosto interessante anche proprio per la mole e la densità di questo sito internet. Sì, certo, è un sito molto importante perché è un esempio di come si possa realizzare un progetto culturale e tecnologico che consenta a tutti di poter fruire delle principali risorse informative che riguardano autore, solo la vita di Dante, ma soprattutto le sue opere. Ecco, una delle cose più interessanti di questo sito sia il fatto che noi vediamo le scritture più antiche delle opere dantesche. Sì, infatti un'eccellenza, diciamo, di questo sito riguarda proprio i manoscritti della Commedia, che sono tutti, diciamo, segnalati, registrati bibliograficamente nel sito, per cui si possono scorrere tutti i manoscritti, diciamo, che esistono della Commedia, ma soprattutto poi una parte di questi manoscritti sono direttamente visionabili online, perché digitalizzati e si possono vedere con una buona riproduzione, con uno zoom che consente di scorrere il testo, con l'ausilio di una lente, si può veramente entrare nelle pagine dei manoscritti. Sì, ingrandendone dei particolari. I dettagli, proprio ingrandendone i dettagli, e questa, diciamo, è una novità importante, unica riguardo i manoscritti, diciamo, della Commedia. E sono un buon numero quelli visionabili. Quelli visionabili, sì. E qui andiamo a cose che abbiamo già detto altre volte, cioè la rete rende disponibile la visione di materiale che in altro modo ormai non si può più toccare, insomma non si può andare in una biblioteca e sfogliarsi dei libri così antichi, così vecchi. Oltre ad una sezione musicale che raggruppa poi vari brani, quasi una trentina, musica dei tempi di Dante, credo che un'altra sezione che fa un certo effetto, insomma, è vedere tutta la bibliografia internazionale, insomma, di Dante. Sì, sì, questo è un altro elemento molto, molto interessante, importante di questo progetto culturale. È disponibile online, diciamo, l'intera bibliografia dantesca, questo grazie al lavoro fatto dalla dalla Società Dantesca Italiana. Infatti dal sito Dante Online si accede tramite un link alla Bibliografia Dantesca Internazionale, che offre un'enormità di risorse, tutte le risorse disponibili, diciamo, al riguardo. E lì scopriamo che Dante è finito anche in Vietnam, insomma. Sì, diciamo la curiosità culturale di questa iniziativa sta anche nelle tante traduzioni che vengono presentate, che si possono, diciamo, trovare in molte lingue, ovviamente arabo, ma ci sono lingue anche africane. Sì, c'è anche l'Afrikaans del Sudafrica, c'è il basco, il giapponese, ci sono, insomma, estone, e addirittura ci sono anche i dialetti. C'è anche la possibilità di fare una ricerca bibliografica e risalire a testi particolari nei quali la Divina Commedia è stata tradotta in dialetto alto lombardo, in dialetto siciliano, in calabrese. Insomma, questa bibliografia offre un panorama globale e completo, non solo per appassionati ma anche per studiosi e ricercatori. Do l'indirizzo di questo sito: www.danteonline.it, sito curato dalla Società Dantesca Italiana in collaborazione con IBM. Di Gianmarco, da quanto è online? Dunque, è stato presentato a Firenze lo scorso 8 luglio, ufficialmente, era già online in progress e continua ancora ad essere un progetto in progress con continui aggiornamenti e integrazioni. Di Gianmarco, grazie. Ci sentiremo altre volte per parlare delle non poche iniziative che ormai stanno crescendo, che riguardano libri antichi, percorsi in rete. Grazie, arrivederci. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È un nome buffo, quello scientifico di queste tartarughe di cui vi parlerà ora Barbara Gallavotti. Careta, careta, ma l'avrete già sentito altre volte probabilmente. La genetica può aiutare a conservarle. Sentiamo. È una notte d'estate e la luna fa brillare l'acqua del mare. Dalla sabbia emerge una tartarughina neonata, lunga pochi centimetri. Inizia da sola il viaggio più pericoloso della sua vita. Pochi metri, deve seguire il bagliore e raggiungere l'acqua. E lì cominciare la sua esistenza. La scena si è ripetuta forse per centinaia di migliaia di anni sulle coste del Mediterraneo. Potrebbe però non ripetersi mai più. La tartaruga del Mediterraneo, la caretta caretta, è una delle specie più minacciate al mondo. Alcuni ricercatori hanno avviato un progetto di studio su una delle ultime popolazioni che nidificano in Italia e i risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista Marine Biology. Sono con noi Tony Mingozzi, dell'Università della Calabria, che si è occupato della raccolta dei campioni. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori. E Andrea Novelletto, dell'Università di Tor Vergata, che si è occupato dell'analisi sul DNA delle tartarughe. Buonasera. Buonasera. Allora, il vostro studio mirava a studiare il DNA delle tartarughe che nascono in particolare su una spiaggia della Calabria. Perché è interessante conoscere il loro DNA? Ma oggi si è capito che conservare una specie vuol dire conservare il suo patrimonio di biodiversità. E quindi nel caso delle tartarughe del Mediterraneo, per noi è assolutamente fondamentale conoscere quanto quelle che nidificano in Italia contribuiscono alla biodiversità delle tartarughe di tutto il Mediterraneo. Perché le tartarughe in un certo senso sono un po' come i salmoni, tornano a deporre le uova là dove sono nate? Sì, esatto. Se tutto andasse bene, quella famosa tartarughina di cui lei ha parlato, fra 20-30 anni tornerà nella stessa spiaggia dove è nata per deporre a sua volta le uova e quindi, diciamo, propagare la specie. Tony Mingozzi, che tipo di campioni avete raccolto? Ma veda, il progetto che coordino da una decina d'anni riguarda appunto la nidificazione della tartaruga marina lungo la costa ionica della Calabria, che è un'area che fino all'inizio appunto del nostro progetto era del tutto sconosciuta come area riproduttiva per questa specie in Italia, o perlomeno era ritenuta un'area del tutto occasionale, e invece si è rivelata essere l'area principale a livello nazionale in termini di regolarità e di consistenza. E quindi noi raccogliamo, una volta che le nidiate sono schiuse, cioè che i piccoli hanno raggiunto il mare, ciò che resta nei nidi, e sono essenzialmente gusci di uova schiuse. Sono magari uova infeconde, sono feti morti o sono anche piccoli che non ce l'hanno fatta risalire la loro camera e sono quindi rimangono cadaverini in fondo alla buca. E voi avete dovuto usare precauzioni particolari per prendere questi campioni? No, sui campioni ormai quando la schiusa si è verificata, per questioni particolari non ce ne sono, se non quelle ovviamente di trattare i campioni in maniera adeguata per conservarli, ma non c'è nessun altro rischio ovviamente, ormai tutto è fatto, come dire. Andrea Novelletto, questo studio rientra in un ambito di studi più ampio, cioè c'è un po' un progetto in tutto il mondo per tracciare l'identikit genetico delle tartarughe? Sì, assolutamente. Studiare il DNA di queste tartarughe è stato fondamentale per capire il loro ciclo vitale. Si è potuto capire che tipo di migrazioni svolgono in tutti gli oceani del mondo e si è potuto capire come mai abbiano e come mai in che modo abbiano colonizzato il Mediterraneo. Questi animali sembrano essere entrati nel Mediterraneo dopo l'ultima glaciazione, quindi quelle che noi osserviamo oggi nel Mediterraneo potrebbero essere i discendenti di quelle prime colonizzatrici. Insomma, questa popolazione che avete studiato è unica o meno? Sì, abbiamo trovato che la popolazione che nidifica in Italia è molto peculiare e dà un contributo notevole alla diversità genetica delle tartarughe del Mediterraneo. È una scoperta piuttosto inaspettata, perché tutte le altre tartarughe, quelle della Grecia, della Turchia, di Cipro e di Creta, sono piuttosto omogenee geneticamente. Quelle della Calabria, eppure la Calabria non è tanto lontana né dalla Grecia né da Creta, sono geneticamente distinguibili e quindi per noi questo è un contributo molto importante che denota che queste tartarughe assolutamente necessitano di una protezione specifica. E invece, Tony Mingozzi, cos'è che mette a rischio le tartarughe della Calabria e in genere le tartarughe delle coste italiane? Ma veda, è una specie che sta destando da anni ormai, che desta un grandissimo interesse perché noi la chiamiamo un bioindicatore, ossia è un animale che riflette, la cui salute delle sue popolazioni riflette lo status in qualche modo di benessere o malessere dell'ambiente in cui vive. Tra l'altro la tartaruga marina vive soprattutto in mare, ma anche sulla terra, cioè sulle spiagge dove si riproduce. Quindi corre rischi e sottoposta a rischi tanto nell'ambiente marino quanto nell'ambiente terrestre. In sostanza, nell'ambiente marino lo sviluppo del traffico nautico e la pesca, soprattutto non certo volontaria ma involontaria, sono causa di una mortalità crescente e decisamente allarmante. E poi ovviamente questi animali che si riproducono esattamente nel periodo in cui noi uomini utilizziamo le spiagge per il nostro relax, per il nostro piacere, sono sottoposte a tutti i rischi connessi con una fruizione pesante turistica delle spiagge e con le trasformazioni che le spiagge hanno subito, e quindi un decremento della natalità. Incremento mortalità e decremento natalità sono, ovviamente portano verso un'unica direzione. Quindi banalmente le luci cittadine alle spalle di locali alle spalle delle spiagge, per esempio, disorientano le tartarughe che invece questa è una delle cause sicuramente. L'altra importantissima ovviamente è la fruizione illegale ovviamente con mezzi motorizzati delle spiagge, tanto per dire un'altra. L'erosione, questa non è una causa diretta attività dell'uomo, ma l'erosione costiera, che è un fenomeno che interessa un po' tutte le nostre coste, ha fatto sparire settori importanti di riproduzione, di sicuro. Quindi è una situazione veramente critica su cui vale la pena proprio cercare di fare il massimo per salvare questo animale così carismatico, insomma. Ma alla fine non sarebbe più comodo traslocarli questi nidi, visto che le tartarughe tornano sulle spiagge dove sono nate, trasferire le uova in una spiaggia più tranquilla dove loro possano tornare anni dopo? Ma veda, in realtà è quello che facciamo, in parte almeno. È una tecnica ben conosciuta di chi si occupa di questi animali, va anche però detto che è una tecnica estremamente delicata, che di norma produce risultati di schiusa inferiori ai nidi naturali. Noi siamo riusciti in realtà a ottenere risultati addirittura superiori e lo facciamo ogni volta che troviamo dei nidi a fortissimo rischio, anche le mareggiate sono causa di distruzione dei nidi, e quindi questo lo facciamo naturalmente con tutte le autorizzazioni che il Ministero e solo il Ministero può dare per questo tipo di attività. Grazie a Tony Mingozzi e ad Andrea Novelletto, buonasera. Buonasera. Buonasera. A Mebius, con una certa regolarità, parliamo di innovazione. Innovare vuol dire fare cose nuove, ma un aspetto che è spesso sottovalutato è il come si fanno, non solo il cosa, insomma. Nel campo dell'efficienza energetica questo approccio è cruciale. Come si gestiscono le nuove tecnologie è cosa determinante. Per parlarne ho un ospite questa sera, Sandra Magnani. Buonasera, Magnani. Buonasera, buonasera. Lei è amministratore delegato della ditta Samares. La vostra ditta si interessa di introduzione di intelligenza informatica, chiamiamola così, nel mondo della gestione dell'energia e in particolare appunto degli impianti di pannelli fotovoltaici. Questo insomma il vostro, come si dice in gergo, core business? Sì, esattamente. Noi sviluppiamo delle soluzioni di automazione e controllo per impianti da energia rinnovabile, soprattutto fotovoltaico, e diciamo lo scopo principale di quella che è la nostra attività e lo scopo principale delle nostre soluzioni è quello di facilitare il controllo e la fruizione dei benefici che derivano dalle fonti di energia rinnovabile a chiunque decide di investire nello sviluppo di questo tipo di risorse. Ecco, l'altra cosa che forse dobbiamo dire è che il vostro intervento non è per l'impianto fotovoltaico, diciamo, personale della piccola casa, dell'abitazione, dell'appartamento, ma è però per aziende, non necessariamente aziende grosse. Cioè voi partite, mi pare, da un qual è la quantità minima, diciamo, del parco fotovoltaico che voi potete amministrare utilmente? Allora, noi abbiamo un insieme di soluzioni differenziate che partono dalla gestione di impianti di produzione della potenza di circa 20 kW di picco. Quindi piccolo in fondo, abbastanza piccolo. Sì, quindi abbiamo soluzioni verticalizzate, quindi specializzate per vari tipi di impianti. Abbiamo una specializzazione per impianti industriali che appunto a seconda dei casi variano dai 20 fino anche a 20 kW fino anche al mega. Generalmente sono impianti installati su tetti. Sì. In questo caso siamo anche in grado di integrare quello che è una gestione intelligente della fonte di energia rinnovabile, anche in particolare del fotovoltaico, con una valutazione e gestione di quella che è l'efficienza energetica del contesto industriale. Le chiedo questo, mettiamoci in una situazione molto concreta, c'è una piccola azienda che ha il suo tetto, mette sopra 50 pannelli fotovoltaici e poi tira giù un cavo e li attacca alla rete dell'azienda e va bene, questo è l'utilizzo minimo. Invece no, fa un'altra scelta, vuole utilizzare le vostre competenze e quindi tra il suo tetto e la rete ci mette tutta un'intelligenza che è quella che voi riuscite a fornire. Che cambiamento c'è in un'operazione di questo genere, in una scelta di questo genere? Sostanzialmente la soluzione che noi forniamo permette di monitorare il rendimento di qualsiasi componente dell'impianto e tiene sotto controllo qual è il livello di produzione corrente dell'impianto, generando allarmi nel caso in cui il livello di produzione si abbassi al di sotto di quelli che sono gli standard concordati o desiderati. Inoltre il sistema legge automaticamente anche tutti i contatori. Sì. E permette di avere dal punto di vista dell'utenza, del produttore di energia rinnovabile, un controllo fine di quello che è la fatturazione. Ho capito. E questa energia rinnovabile poi può essere sostanzialmente immessa nella rete Enel o può essere utilizzata in loco. In questo caso il sistema tiene sotto controllo tutti i contatori che sono situati all'interno dell'azienda, i contatori di consumo, i contatori di produzione, e riesce anche a sostanzialmente canalare l'energia, quella prodotta e quella anche acquistata, in modo tale da rendere minimo il costo complessivo energetico dell'azienda. Quindi questo significa che, per esempio, poter controllare il funzionamento e il rendimento di ogni singolo pannello, poter controllare ogni singolo contatore, vuol dire che abbiamo la capacità di ottimizzare tutto, mentre invece se non facciamo questo abbiamo un uso molto grezzo di questa sorgente. Sì, diciamo che la granularità del controllo aiuta a sostanzialmente a capire i propri consumi e a incanalare al meglio quello che è l'uso della produzione. Bene, Sandra Magnani, grazie per questa conversazione, buon lavoro. Grazie a lei per l'opportunità. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il Parco delle Cinque Terre lo conosciamo credo tutti, sono le nostre Cinque Terre, quelle della Liguria. Ebbene, da questo parco parte un'iniziativa che finisce a Gibilterra, esattamente nel mare di Alboran. Per parlare di questa cosa strana, ma che però capirete perfettamente invece come torna, ho due ospiti questa sera. Marco Bianucci del CNR, buonasera Bianucci. Buonasera. Lei appartiene all'INFM, l'Istituto Nazionale di Fisica della Materia, ma però anche collabora con l'ISMAR, che è l'altro istituto che si interessa invece di mare, di biologia marina. Emilio Tesi, buonasera. Buonasera. Lei è l'altro nostro ospite, direttore generale di Environmental Ocean Team, che è la struttura che organizza questa missione. Poi dopo andremo di più nei dettagli. Ecco Bianucci, allora, con una barca partirete esattamente quando? Beh, stiamo partendo proprio in questi giorni. E la barca allora raggiungerà il mare di Alboran. Quale zona? Abbiamo parlato prima di vicinanze di Gibilterra, esattamente dove allora? È quella parte del Mediterraneo occidentale che è tra la Spagna e l'Africa, il nord del Marocco e la Spagna. Qui ci sono una serie di isolette, una di queste si chiama Alboran e danno il nome a questo tratto del mare. Ma siamo esattamente a ridosso proprio dello stretto? Dello stretto, sì, sempre all'interno del Mediterraneo. Sempre però all'interno del Mediterraneo. Questa me la immagino come una zona di correnti, di vortici, una fluidodinamica piuttosto allegrotta, insomma. Com'è questa zona? Sì, è una zona molto caratteristica, peculiare, dove le acque salate e calde del Mediterraneo incontrano quelle più fredde e meno salate dell'Oceano Atlantico. Le acque salate del Mediterraneo stanno più in profondità in quanto sono più dense e quelle dell'Oceano Atlantico invece stanno più in superficie, nonostante siano più fredde, ma proprio perché sono meno salate. Mm-hmm. L'incontro tra queste due acque con queste caratteristiche diverse genera delle turbolenze, genera un mescolamento. E quindi delle correnti verticali. Ora, in tutto il mondo, quindi anche negli oceani, le correnti verticali sono di particolare importanza in quanto portano verso l'alto, ad esempio, i nutrimenti che stanno nelle profondità, e portano in generale un mescolamento anche tra le acque calde e le acque fredde, più salate e meno salate, che poi di fatto costituisce il motore per quelle correnti che si instaurano e che portano anche una distribuzione del calore verso diverse latitudini. Insomma, è un punto particolarmente importante, non ce ne sono tanti sia nel Mediterraneo ma neanche nell'oceano di punti così fondamentali, un punto molto interessante anche dal punto di vista biologico, non soltanto fisico, in quanto questo mescolamento, che appunto coinvolge anche le sostanze organiche, attira un grande numero di fauna, tra cui tartarughe, molti pesci, le focene addirittura. E' anche una zona dove è molto attiva la riproduzione anche degli organismi microscopici, quindi le alghe, le microalghe e anche quelle tossiche che poi periodicamente ci ritroviamo nelle nostre acque. Ecco, è un posto particolare, sembra lontano, ma in realtà l'oceano, anzi il Mediterraneo, va considerato come un sistema molto connesso. Quello che succede là influenza molto quello che poi avviene nelle nostre coste. Questa dipendenza che c'è, no, nessuno lo mette in dubbio, però capire quanto sia stretta e quindi magari eventualmente poter fare delle previsioni e anche delle analisi su questo legame sarebbe veramente interessante, e attualmente non ci sono studi così approfonditi che ci consentano di avere una visione chiara. Emilio Tesi. Buonasera. Allora, intanto come mai il Parco delle Cinque Terre sponsorizza questa missione a Gibilterra? Come sosteneva Bianucci, condurre una ricerca in quella determinata area del Mediterraneo sicuramente può condurre a dei risultati interessanti, e questi risultati insomma possono essere utilizzati anche in diverse aree del Mediterraneo. Andare a studiare le alghe tossiche in quel determinato ambiente può portare ad una maggiore comprensione per quanto riguarda le dinamiche che portano alla loro formazione. Quindi insomma, di qua bisogna capire la sensibilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre di dedicarsi un pochettino anche alla ricerca. Ci sono anche delle altre strutture oltre al CNR che partecipano a questa avventura, no? Diciamo, la principale struttura coinvolta è il National Oceanography Center di Southampton, che è il più grande studio europeo, sicuramente uno dei primi cinque al mondo, il più grande studio centro per gli studi di tipo oceanografico, studi climatici. Ricordo che appunto la missione si svolge a bordo di una barca. Che barca è, Tesi? La barca è Adriatica, la barca dei velisti per caso, è un'imbarcazione a vela e quindi la conosciamo più o meno tutti, avendo già sperimentata anche dal punto di vista della comunicazione. Insomma. Bene, noi vi seguiremo nei prossimi giorni per vedere che cosa viene fuori, ma immagino, Bianucci, che poi i risultati invece bisognerà analizzarli, arriveranno più tardi. Insomma. Certamente, doppio ci sarà, ecco, questo lo vorrei sottolineare, parte integrante e importante di questo progetto, una campagna outreach, come si dice, e comunicazione per cercare di sensibilizzare il comune cittadino, quindi tutti, su queste questioni che sono assolutamente importanti. Marco Bianucci, Emilio Tesi, buonasera, grazie per il contributo, ci sentiremo da Gibilterra. Grazie, buonasera, risentirci. Nei film l'abbiamo già visto, un futuro nel quale sul campo di combattimento ci sono solo robot, è uno scenario che suscita emozioni strane, direi sgradevoli, non ci sono esseri umani che perdono la vita, ma la guerra è un gioco, ma insomma non si sa che dire. Però la robotica già oggi è presente negli armamenti. Vi parla di tutto ciò Maurizio Meris. Se avete trovato inquietante ciò che avete sentito, beh, insomma, non vi si può dare torto. È uno stralcio tratto da Battlestar Galactica, una delle più fortunate serie di fantascienza degli ultimi anni. Protagonisti della vicenda, 40.000 uomini e donne, quanto resta di tutto il genere umano, che cercano tra mille peripezie un pianeta su cui stabilirsi, mentre fuggono inseguiti dai siloni, robot autocoscienti e armati fino ai denti che si sono ribellati ai loro stessi creatori. Beh, insomma, la fantascienza pullula di robot soldati più o meno umanoidi e, oserei dire, più o meno umani. E come spesso accade, anticipa, se non la realtà, perlomeno una precisa direzione di ricerca. Difatti, molte ricerche militari puntano proprio a progettare robot soldati. In un articolo comparso su Scienza e Società di giugno, Vincenzo Capone e Guglielmo Tamburrini cercano di fare il punto sulla ricerca robotica militare, un tema insomma molto scomodo e un po' impopolare, col quale tuttavia è inevitabile confrontarsi. I numeri citati dai due autori infatti non lasciano dubbi sulla necessità di aprire perlomeno una riflessione. In Iraq e in Afghanistan sono già oggi presenti circa 7.000 robot militari terrestri, mentre l'aereo a comando remoto MQ-1 Predator già nel 2006 dichiarava 170.000 ore di volo e oggi sono certamente molte di più. Insomma, si capisce come mai il Congresso degli Stati Uniti abbia approvato un piano che punta a sostituire entro il 2010 un terzo degli aerei da incursione con veicoli aerei robotici e, anche se molto più in là, nel 2150 una analoga quota di truppe di terra. D'altronde proprio lo iato fra queste due scadenze, poste addirittura a 140 anni di distanza, ci dice qualcosa sullo stato della ricerca. Infatti, se da un lato l'utilizzo di robot in guerra non è una novità in termini assoluti, dall'altro la tecnologia è assai lontana dall'essere in grado di realizzare un robot autonomo, capace di prendere decisioni sulla base di precise regole di ingaggio e di orientarsi in una situazione di conflitto reale, decisamente lontana dalla semplicità di una simulazione, come nel caso peraltro assai frequente, in cui i nemici per esempio non portino la divisa o insegne di qualche tipo che li rendano riconoscibili. Oggi non c'è robot neanche lontanamente capace di distinguere un nemico ferito da uno sano o un civile da un guerrigliero. E infatti fino ad oggi nessun robot che abbia attaccato un obiettivo ha sparato senza che un essere umano potesse vedere l'obiettivo coi suoi occhi e premesse il grilletto. I più penseranno che ciò sia una fortuna e chi vi parla, insomma, si iscrive volentieri fra i sostenitori di questa tesi. Tuttavia, chi la pensa diversamente sostiene che non solo i robot risparmierebbero le vite dei soldati che dovrebbero andare in guerra al posto loro, ma potrebbero persino rivelarsi in battaglia più umani dei loro stessi progettisti. Per esempio, sarebbero immuni dall'odio, dal desiderio di vendetta, sentimenti assai umani, che sono all'origine di brutalità che persino la guerra vorrebbe cancellare, come le uccisioni di ostaggi civili, la tortura o anche l'uccisione di nemici feriti e perciò, insomma, inoffensivi. Ma qui ricadiamo nell'eterno dilemma di chi costruisce armi. Se si costruiscono armi più letali è chiaramente immorale, se si costruiscono armi meno letali è probabilmente lo stesso immorale perché si è tentati di utilizzarle più spesso. D'altronde proprio la capacità di instillare nei robot guerrieri questa sorta di codice morale, finto ma paradossalmente più solido, rappresenta la principale sfida scientifica e tecnologica di fronte alla quale si trovano i ricercatori militari. Insomma, nel momento in cui avremo il primo robot capace di un'etica, sembra che potremo avere anche il primo robot soldato. Un'eventualità che solleva interrogativi estremamente profondi. Può una macchina decidere autonomamente di porre fine alla vita di un essere umano? Può anche solo decretare che una persona vada resa inoffensiva o immobilizzata? E chi, infine, sarà responsabile per le sue azioni? È finito agosto e in questo mese Möbius va in onda ogni giorno da lunedì al venerdì alle 16, ma vi ricordo che anche la prossima settimana, quindi entriamo nel mese di settembre, sarà così. Per il momento comunque Möbius di oggi termina qui. Buona serata a tutti e a tutte.